Ciao. Ciao. Lì, proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio, liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello il mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare. Poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao. Sì, tra video e giornali, e noi sempre più lessi a farci dindolare con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, è il gioco della vita, ma dobbiamo preparare. Non ci sfugare le dita.